ad alta voce. Elio De Capitani legge Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Eravamo alla metà di settembre, la domenica della Madonna. Fin dal mattino le strade erano piene di contadini vestiti di nero. C'erano dei forestieri, i musicanti di Stigliano e gli artificieri di Sant'Arcangelo venuti a disporre le bombe e i mortaretti. Il cielo era chiaro e leggero. Ogni tanto giungeva per l'aria, con il suono funebre delle campane, lo sparo di qualche fucilata. I contadini, con i loro schioppi lucidi, inauguravano la festa. Il pomeriggio, dopo le ore del caldo, cominciò la processione. Uscì dalla chiesa e percorse tutto il paese. Risalì dapprima fino al cimitero, poi ridiscese alla piazza, alla piazzetta, giù fino a Gagliano di Sotto e alla crollata Madonna degli Angeli, per tornare poi, per la stessa strada, al punto di partenza e rientrare in chiesa. Davanti camminavano dei giovanotti con delle pertiche su cui, a guisa di stendardi, erano attaccati dei panni, dei lenzuoli bianchi, e li agitavano e sventolavano, e i suonatori della banda di Stigliano con le trombe lucenti e fragorose. Poi, su un baldacchino retto da due lunghe stanghe portato a turno da una dozzina di uomini, veniva la Madonna. Era una povera Madonna di cartapesta dipinta, una copia modesta della celebre e potentissima Madonna di Viggiano, e aveva, come quella, il viso nero. Era tutta coperta di abiti di gala, di collane e di braccialetti. Dietro la Madonna camminava Don Traiella, con una stola bianca sulla vecchia sottana bisunta, e il suo solito aspetto stanco, smunto e annoiato, poi il podestà e il brigadiere, e poi i signori, e poi le donne, tutte insieme, con un grande ondeggiare di veli bianchi, i ragazzi e i contadini. Si era levato un gran vento fresco, che alzava nuvole di polvere e faceva volare le sottane, i veli e le bandiere. Forse sarebbe venuta la pioggia, in tanti mesi di arsura invano invocata e desiderata. Al passaggio della processione scoppiava con fragore una doppia fila di mortaretti, disposti lungo tutta la strada. Le micce si accendevano, le strisce di polvere prendevano fuoco, le bombe detonavano, i contadini si affacciavano sulle soglie con i fucili e sparavano in aria. Il crepitio, il frastuono erano continui, interrotti soltanto dal rumore improvviso di qualche carica più grossa, che rimbombava e svegliava gli echi dei burroni. In questo chiasso di battaglia non si vedeva, negli occhi delle persone, felicità o estasi religiosa, ma una specie di follia, una pagana smoderatezza, e come uno stordimento a cui si lasciavano andare. Tutti erano eccitati, gli animali correvano spaventati, le capre saltavano, gli asini ragliavano, i cani abbaiavano, i ragazzi urlavano, le donne cantavano. Sugli usci di tutte le case i contadini aspettavano la processione con in mano un cesto di grano, e al suo passaggio ne buttavano piene manciate sulla Madonna perché si ricordasse dei raccolti e portasse la buona fortuna. I chicchi volavano per l'aria, cadevano sulle pietre del selciato, rimbalzavano con un rumore leggero come di grandine. La Madonna dal viso nero, tra il grano e gli animali, gli spari e le trombe. Non era la pietosa madre di Dio, ma una divinità sotterranea, nera delle ombre del grembo della terra, una Persefone contadina, una dea infernale delle messi. Davanti alla porta di alcune case, qua e là dove la strada si allargava, erano preparati dei tavoli coperti da una tovaglia bianca come dei piccoli rustici altari. La processione faceva sosta qui davanti. Don Traiella biascicava qualche benedizione e i contadini e le donne correvano a portare le offerte. Attaccavano agli abiti della Madonna delle monete, dei biglietti da 5 o da 10 lire e persino dei dollari, avanzo geloso delle fatiche americane. Ma i più le appendevano al collo grandi collane di fichi secchi. O posavano ai suoi piedi frutta e uova e correvano con altre offerte quando già la processione si era rimessa in cammino e si univano alla folla e allo strepito delle trombe, degli spari e delle grida. Più la processione avanzava, più si faceva numerosa e tumultuante, finché, ripercorso tutto il paese, non rientrò nella chiesa. Cadeva qualche grossa goccia di pioggia, ma presto il vento spazzò le nubi, il temporale si allontanò e tornò il sereno con le prime stelle della sera. Così non si sarebbe sciupato lo spettacolo dei fuochi. Tutti mangiarono un boccone in fretta. Appena buio, tutto il paese si riversò ai bordi del burrone, di dove, qualche metro più in basso, dovevano partire le bombe. Fu allora che vidi dei gruppi di giovani salire sul tetto del monumento della piazzetta per meglio godere di là lo spettacolo. In onore della Madonna, anche noi confinati potevamo restare un'ora di più fuori di casa. Era la grande giornata, la festa dei raccolti, la sera del fuoco. Si erano spese 3.000 lire per i fuochi artificiali e questa era un'annata cattiva. Altre volte si era arrivati alle 5 e alle 6.000. I paesi più grandi consumano, nei giorni dei loro santi, cifre anche molto più grosse. 3.000 lire per Gagliano sono una somma enorme. Il risparmio totale di mezza annata, ma per i fuochi si buttano volentieri e nessuno le rimpiange. Si erano consultati a gara gli artificieri più noti della provincia. Se si avesse avuto più denaro, si sarebbero scelti quelli di Montemurro o quelli di Ferrandina. Ma ci si era dovuti accontentare dei Sant'Arcangelesi, che del resto erano buonissimi. Ed ecco, tra gli applausi, le grida di spavento e di ammirazione delle donne e dei bambini, la prima candela romana saliva diritta verso il cielo pieno di stelle, e poi un'altra, e un'altra ancora, e poi le girandole, i bengala, le bombe, le grandi piogge d'oro, uno spettacolo meraviglioso. Erano le 10 e dovevo rientrare. Dalla mia terrazza, con Barone che guardava eccitato in aria e abbaiava gli spari, rimasi ancora a lungo a contemplare le luci che salivano e ricadevano sfriggendo sull'argilla del timbone e ad ascoltare il rimbombo degli scoppi. Poi ci fu il lancio accelerato di 20 fuochi e il gran colpo finale. E udì a poco la gente disperdersi, i passi sulle pietre, lo sbattere degli usci. Il giorno della festa contadina era finito, con la sua agitazione frenetica e infuocata. Gli animali dormivano e sul paese buio era tornato il silenzio. La pioggia non venne neppure nei giorni seguenti. Malgrado la processione, le invocazioni di Don Traiella e le speranze dei contadini, la terra era troppo dura per lavorarla. Le olive cominciavano a rinsecchire sugli alberi assetati. ma la Madonna dal viso nero rimase impassibile, lontana dalla pietà, sorda alle preghiere, indifferente natura. Eppure gli omaggi non le mancavano, ma sono assai più simili all'omaggio dovuto alla potenza che a quello offerto alla carità. Questa Madonna nera è come la terra, può far tutto, distruggere e fiorire, ma non conosce nessuno e svolge le sue stagioni secondo una sua volontà incomprensibile. La Madonna nera non è per i contadini né buona né cattiva, è molto di più. Essa secca i raccolti e lascia morire, ma anche nutre e protegge. E bisogna adorarla. In tutte le case, a capo del letto, attaccata al muro con quattro chiodi, la Madonna di Viggiano assiste, con i grandi occhi senza sguardo nel viso nero, a tutti gli atti della vita. Le case dei contadini sono tutte uguali, fatte di una sola stanza che serve da cucina, da camera da letto e quasi sempre anche da stalla per le bestie piccole, quando non c'è per quest'uso vicino alla casa un casotto che si chiama in dialetto con parola greca il catoico. Da una parte c'è il camino, su cui si fa da mangiare con pochi stecchi portati ogni giorno dai campi. I muri e il soffitto sono scuri per il fumo. La luce viene dalla porta. La stanza è quasi interamente riempita dall'enorme letto, assai più grande di un comune letto matrimoniale. Nel letto deve dormire tutta la famiglia, il padre, la madre e tutti i figliuoli. I bimbi più piccini, finché prendono il latte, cioè fino ai 3 o 4 anni, sono invece tenuti in piccole culle o cestelli di vimini, appesi al soffitto con delle corde e penzolanti poco più in alto del letto. La madre, per allattarli, non deve scendere, ma porge il braccio e se li porta al seno. Poi li rimette nella culla, che con un solo colpo della mano fa dondolare a lungo come un pendolo, finché essi abbiano cessato di piangere. Sotto il letto stanno gli animali. Lo spazio è così diviso in 3 strati. Per terra le bestie, sul letto gli uomini e nell'aria i lattanti. Io mi curvavo sul letto quando dovevo ascoltare un malato o fare una iniezione a una donna che batteva i denti per la febbre e fumava per la malaria. Col capo toccavo le culle appese e fra le gambe mi passavano improvvisi i maiali o le galline spaventate. Ma quello che ogni volta mi colpiva, ed ero stato ormai nella maggior parte delle case, erano gli sguardi fissi su di me, dal muro sopra il letto, dei 2 inseparabili numi tutelari. Da un lato c'è la faccia negra e aggrondata e gli occhi larghi e disumani della Madonna di Viggiano. Dall'altra, a riscontro, gli occhietti vispi, dietro gli occhiali lucidi e la gran chiostra dei denti aperti nella risata cordiale del presidente Roosevelt, in una stampa colorata. Non ho mai visto in nessuna casa altre immagini, né il re, né il duce, né tantomeno Garibaldi, o qualche altro grand'uomo nostrano, e neppure nessuno dei santi, che pure avrebbero avuto qualche buona ragione per esserci. Ma Roosevelt e la Madonna di Viggiano non mancavano mai. A vederli, uno di fronte all'altra in quelle stampe popolari, parevano le 2 facce del potere che si è spartito l'universo. Ma le parti erano giustamente invertite. La Madonna era qui la feroce, spietata, oscura dea arcaica della terra, la signora saturniana di questo mondo. Il presidente, una specie di Zeus, di dio benevolo e sorridente, il padrone dell'altro mondo. A volte una terza immagine formava con quelle 2 una sorta di trinità, un dollaro di carta, l'ultimo di quelli portati di laggiù o arrivato in una lettera del marito o di un parente, stava attaccato al muro con una puntina sotto alla Madonna o al presidente o tra l'uno e l'altro, come uno spirito santo o un ambasciatore del cielo nel regno dei morti. per la gente di Lucania, Roma non è nulla. È la capitale dei signori, il centro di uno stato straniero e malefico. Napoli potrebbe essere la loro capitale, e lo è davvero, la capitale della miseria. Nei visi pallidi, negli occhi febbrili dei suoi abitatori, nei bassi, dalla porta aperta per il caldo l'estate, con le donne discinte che dormono a un tavolo nei gradoni di Toledo. Ma a Napoli non ci sta più da gran tempo nessun re. E ci si passa soltanto per imbarcarsi. Il regno è finito. Il regno di queste genti senza speranza non è di questa terra. L'altro mondo è l'America. Anche l'America ha, per i contadini, una doppia natura. È una terra dove si va a lavorare, dove si suda e si fatica, dove il poco denaro è risparmiato con mille stenti e privazioni, dove qualche volta si muore e nessuno più ci ricorda. Ma nello stesso tempo, e senza contraddizione, è il paradiso, la terra promessa del regno. Non Roma o Napoli, ma New York sarebbe la vera capitale dei contadini di Lucania, se mai questi uomini senza stato potessero averne una. E lo è, nel solo modo possibile per loro, in un modo mitologico. Per la sua doppia natura come luogo di lavoro, essa è indifferente. Ci si vive come si vivrebbe altrove, come bestie legate a un carro, e non importa in che strade lo si debba tirare. Come paradiso, Gerusalemme celeste, oh, allora quella non si può toccare, si può soltanto contemplarla al di là del mare, senza mescolarvisi. I contadini vanno in America e rimangono quello che sono. Molti vi si fermano e i loro figli diventano americani, ma gli altri, quelli che ritornano dopo 20 anni, sono identici a quando erano partiti. In 3 mesi le poche parole d'inglese sono dimenticate, le poche superficiali abitudini abbandonate. Il contadino è quello di prima, come una pietra su cui sia passata per molto tempo l'acqua di un fiume in piena e che il primo sole in pochi minuti riasciuga. In America essi vivono a parte, fra di loro. Non partecipano alla vita americana. Continuano per anni a mangiar pan solo, come a Gagliano, e risparmiano i pochi dollari. Sono vicini al paradiso, ma non pensano neppure ad entrarci. Poi tornano un giorno in Italia, col proposito di restarci poco, di riposarsi e salutare i compari e i parenti, ma ecco, qualcuno offre loro una piccola terra da comperare e trovano una ragazza che conoscevano bambina e la sposano. E così passano i 6 mesi, dopo i quali scade il loro permesso di ritorno laggiù e devono rimanere in patria. La terra comperata è carissima. Hanno dovuto pagarla con tutti i risparmi di tanti anni di lavoro americano. E non è che argilla e sassi, e bisogna pagare le tasse, e il raccolto non vale le spese, e nascono i figli, e la moglie è malata, e in pochissimo tempo è tornata la miseria. La stessa eterna miseria di quando tanti anni prima erano partiti. E con la miseria torna la rassegnazione, la pazienza e tutti i vecchi usi contadini. In breve, questi americani non si distinguono più in nulla da tutti gli altri contadini, se non per una maggiore amarezza, il rimpianto che talvolta affiora d'un bene perduto. Gagliano è piena di questi emigranti ritornati. Il giorno del ritorno è considerato da loro tutti un giorno di disgrazia. Il 1929 fu l'anno della sventura e ne parlano tutti come d'un cataclisma. Era l'anno della crisi americana. Il dollaro cadeva, le banche fallivano. Ma questo, in generale, non colpiva i nostri emigrati. che avevano l'abitudine di mettere i loro risparmi in banche italiane e di cambiarli subito in lire. Ma a New York c'era il panico e c'erano i propagandisti del nostro governo che, chissà perché, andavano dicendo che in Italia c'era lavoro per tutti e ricchezza e sicurezza e che dovevano tornare. Così moltissimi, in quell'anno di lutto, si lasciarono convincere, abbandonarono il lavoro, presero il piroscafo e tornarono al paese. E vi restarono invischiati come mosche in una ragnatela. Eccoli di nuovo contadini, con l'asino e la capra. Eccoli partire ogni mattina per i lontani bordi di malaria. Altri conservavano invece il mestiere che facevano in America. Ma qui al paese non c'è lavoro e si fa la fame. Maledetto il 1929 che mi ha fatto tornare, mi diceva Giovanni Pizzilli, il sarto, mentre mi prendeva le misure in pollici, con complicati, originali e moderni sistemi americani per l'abbassamento della spalla e non so che altro, per un vestito alla cacciatura. Era un artigiano intelligente, abilissimo nel suo mestiere, come se ne trovano pochi nelle più celebrate sartorie di città, e mi fece per 50 lire di fattura il più bell'abito di velluto che io abbia mai portato. In America guadagnava bene. Ora era in miseria. Aveva già 4 o 5 figli. Non sperava più di risollevarsi. E sul suo viso ancor giovane era scomparsa ogni traccia di energia e di fiducia, per lasciarvi una continua, disperata espressione di angoscia. Laggiù aveva un salone e 4 lavoranti. Nel 29 sono venuto per 6 mesi, ma ho preso moglie e non sono più partito. E ora sono ridotta a questa botteguccia e a combattere con la miseria. Mi diceva il barbiere, un uomo coi capelli già grigi sulle tempie, con l'aria seria e triste. A Gagliano c'erano 3 botteghe di barbiere e questa dell'americano in alto, vicino alla chiesa, sotto la casa della vedova, era la sola che fosse sempre aperta, quella dove si rasavano i signori. Quella di Gagliano di sotto, tenuta dall'Albino, l'amante di Giulia, serviva i contadini poveri ed era quasi sempre chiusa. L'Albino aveva anche da coltivare la terra e adoperava il rasoio la mattina dei giorni di festa e soltanto di quando in quando durante la settimana. A metà del paese, verso la piazza, c'era la terza bottega e anche questa era sempre chiusa perché il suo padrone era in giro in continue faccende. In questa bottega la gente entrava con aria misteriosa e chiedeva del padrone a bassa voce. Era un biondo, col viso astuto di una volpe, agile nei movimenti, con gli occhietti brillanti, intelligente, attivo e sempre in moto. Era stato da militare caporale di sanità durante la Grande Guerra e aveva imparato così a fare il medico. Il suo mestiere ufficiale era il barbiere, ma le barbe e i capelli dei cristiani erano l'ultima delle sue occupazioni. Oltre a tosare le capre, a curare le bestie e dar la purga agli asini, a visitare i maiali, la sua specialità era quella di cavare i denti. Per 2 lire tirava una mola, senza troppo dolore né inconvenienti. Era una vera fortuna che ci fosse lui in paese, perché io non avevo la minima idea dell'arte del dentista e i 2 medici ne sapevano ancor meno di me. Il barbiere faceva le iniezioni, anche quelle endovenose, che i 2 medici non sapevano neppure cosa fossero. Sapeva mettere a posto le articolazioni lussate, ridurre una frattura, cavar sangue, tagliare un ascesso. E per di più, conosceva le erbe, gli empiastri e le pomate. Insomma, questo Figaro sapeva far tutto e si rendeva prezioso. I 2 dottori lo odiavano, anche perché egli non nascondeva all'occasione il suo giudizio sulla loro ignoranza, ed era amato dai contadini. Ogni volta che passavano davanti alla sua bottega, lo minacciavano di denunciarlo per esercizio abusivo della professione medica. Siccome non si limitavano alle minacce, ma ogni tanto partiva realmente qualche lettera anonima e lo facevano chiamare dal brigadiere per una diffida, e il barbiere doveva usare 1000 astuzie, nascondere il suo lavoro sotto pretesti e non lasciarsi vedere. Da principio diffidava anche di me, ma poi si accorse che io non l'avrei tradito e mi divenne amico. Aveva davvero una certa abilità e io lo chiamavo perché mi aiutasse nei piccoli interventi chirurgici e lo incaricavo di andare a fare le iniezioni. Che cosa importava se non era autorizzato? Le faceva benissimo, ma doveva agire di nascosto, perché l'Italia è il paese dei diplomi, delle lauree, della cultura ridotta soltanto al procacciamento e alla spasmodica difesa dell'impiego. Molti contadini camminano ancora a Gagliano, che sarebbero rimasti zoppi ad opera della scienza ufficiale per tutta la vita, grazie a questo figaro contrabbandiere dall'aspetto furtivo, mezzo stregone e mezzo medicone, in guerra con l'autorità e coi carabinieri, col piede lesto e l'anima scaltra. Elio De Capitani ha letto Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, tecnico del suono Raffaele Stefani, regia di Diego Marras. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.